Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Mercoledì 10.30 è l'orario di inizio, più o meno naturalmente 10.30 è l'orario di inizio di Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live di tutti i generi e di tutte le epoche. Ma come sempre, Città Fujiko Live Club inizia con una novità e oggi abbiamo una novità succulenta, una cosa che omaggia un grande artista che purtroppo è scomparso oramai tanti anni fa e che ha portato veramente tantissime belle cose alla musica non solo americana ma alla musica mondiale. Il suo nome era Warren Zevon. Warren Zevon nacque a Chicago, ma la sua famiglia si trasferì molto presto in California. La famiglia era di origine ucraina, fra parentesi, visto che in questi ultimi anni gli ucraini sono sulla cresta dell'onda. Il suo nome vero era Civotofsky o qualcosa del genere. Fra l'altro lui ha studiato musica classica, ha studiato il pianoforte, niente poco di meno che con Igor Stravinsky, ha preso qualche lezione dal grande musicista. E inizialmente lui era un session man e un autore di canzoni per altri, poi si è messo in proprio, fra l'altro grazie anche all'amicizia che aveva con Jackson Browne. Si è messo in proprio, ha fatto un sacco di album e ha fatto una serie di brani che sono notevoli, brani che ci ascolteremo nella prima parte della trasmissione. Ma perché parliamo di Warren Zevon? Non è uscito un suo album nuovo, benché postumo, ma è uscito un album che si chiama semplicemente Shooter Jennings and the Werewolves of Los Angeles Do Zevon. Il titolo dice già tutto, anche se mi sono impappinato e forse non l'ho detto molto bene, ma è un album che Shooter Jennings e la sua band, che nel caso si è chiamata Werewolves of Los Angeles, ha pubblicato con tutti i brani di Warren Zevon. Shooter Jennings è un figlio d'arte, si chiama in realtà Waylon Albright Jennings, detto Shooter naturalmente, ed è un chitarrista, pianista, cantante che viene da Nashville ed è il figlio di Waylon Jennings e Jesse Coulter, che sono due grandi personaggi, due icone, si dovrebbe dire, della musica country americana. Shooter sin da giovanissimo ha suonato naturalmente con bands di ogni genere, dal rock al punk al country appunto, e poi si è messo in proprio e ha fatto diversi album live, fra cui questo ultimo che si chiama, lo ripeto, Do Zivon, cioè Fa Zivon, che è composto tutte da canzoni di questo grande personaggio che, lo ripeto, si chiama Warren Zivon, scomparso purtroppo nel 2003 alla sola età di 56 anni, ma di questo avremo tempo di parlare. E l'album è stato registrato al Renegades Music Festival di Monterey in California il 16 ottobre del 2022. E dopo tutta questa chiacchiera, questa introduzione, ce l'andiamo ad ascoltare. Shooter Jennings, il brano che ho scelto per voi per introdurvi, se mai non lo siete già, al mondo di Warren Zevon, è questa famosissima Mohammed Radio. How many of y'all love and know Warren Zevon's music? If you don't, you're getting a little bit of a masterclass in it tonight from all these guys, man. The song's called Mohammed's Radio. Everybody's restless and they got no place to go. It's always someone trying to tell. Somebody singing La radio di Mohamed, quindi Shooter Jennings and the Werewolves of Los Angeles, Those Even si chiama l'album, lo ripeto, solamente singolo purtroppo, e fra l'altro non dura neanche tanto, e ha una particolarità nel senso che nel retro, nella copertina dell'album, diciamo, ci sono segnati 11 pezzi. In realtà nell'album ce ne sono 13, ce ne sono altre due che sono inserite in mezzo alla scaletta. E l'album è molto bello, secondo me le canzoni di Warren Zevon credo non si discutano, e l'unico difetto è che sono un po' troppo simili all'originale, non sono molto molto arrangiate in modo diverso, cantate in modo diverso, sono molto fedeli all'originale, per alcuni è un bene, per altri, fra cui il sottoscritto, non è proprio così bene, bisognerebbe dare un tocco di personalità propria alle varie canzoni. Comunque questa è una piccola opinione da parte mia, l'album, lo ripeto, è molto molto bello e ce lo ascolteremo ancora nel corso di questa mattinata, e intanto nella prima parte della trasmissione ci ascolteremo brani di Warren Zevon interpretati da altri artisti. E cominciamo subito alla grande con Mr. Bob Dylan. Piccolo antefatto, come vi dicevo in precedenza, Warren Zevon è morto nel settembre del 2003 e un anno dopo, praticamente nell'ottobre del 2004, è stata pubblicata una raccolta di suoi brani interpretati da altri artisti. Ce ne sono diversi, adesso ve ne dico qualcuno, tipo Don Henley degli Eagles, tipo Steve Earle, Jackson Browne naturalmente non poteva mancare, Wallflowers, la band del figlio di Bob Dylan, Jordan Zevon, il figlio di Warren Zevon, Billy Bob Thornton, Pete Yorn, David Lindley, i Pixies, anche fra parentesi faranno un bellissimo pezzo, e anche sua eminenza, chiamiamolo così, His Bobness, come lo chiamano i suoi fans. Bob Dylan partecipa con un brano, la raccolta si chiama Enjoy Every Sandwich ed è un titolo molto molto particolare, nel senso che Warren Zevon è sempre stato nei suoi testi molto sarcastico, molto ironico, anche molto umoristico a volte, e della sua malattia si seppe praticamente subito, si seppe anche che aveva pochissimo tempo da vivere, però lui continuò a suonare, a cantare, e fu intervistato in TV, adesso quando mi ricordo il nome dell'host, cioè di colui che gestiva il programma televisivo, ve lo dirò, adesso non me lo ricordo, un piccolo vuoto di memoria, però gli chiese appunto come stai, cosa ne pensi, qual è la tua sensazione, il tuo mood, e lui rispose semplicemente: mi godo ogni sandwich, enjoy any sandwich, ed è questo il titolo di questa raccolta che è veramente molto interessante. Dicevo, Bob Dylan partecipa con un brano che si chiama Mutineer, che è tratto dall'album omonimo di Warren Zevon, un album che è uscito nel 1995. Contrariamente, sulle note di copertina c'è scritto che questo brano è registrato in Australia. Invece, siccome Bob Dylan ha una serie di pazzi furiosi che sanno anche quante volte va in bagno al giorno, andando a cercare esattamente la data di registrazione, si sa che si viene a sapere, si impara che è stato registrato a Red Bluff in California nell'ottobre del 2002. Ce l'andiamo ad ascoltare, si chiama Mutineers, Mr. Bob Dylan. Wrap your coat, let's get out of here. Yo-ho-ho and a bottle of rum. Hoist the mainsail, here I come. Ain't no room on board for the insincere. You're my witness, I'm your mutineer. I was born to rock the boat. Some may sink, but we will float. Honey, grab your coat and let's get out of here. You're my witness, I'm your mutineer. Long ago we laughed at shadows. Lightning flashed and thunder followed us. It won't ever find us here. You're my witness, I'm your mutineer. Ebbene sì, due volte lo stesso pezzo, ma in due versioni diverse. Chiaramente la prima versione di questo ammutinato mutineer, Brandy Warren Zevon, la prima versione, dicevo, era di Mr. Bob Dylan, poi questo ultimo invece era di Resentments, una differenza abissale come notorietà e anche come qualità musicale, onestamente. Diciamo che Bob Dylan non si discute, i Resentments invece un po' di più, ma è una band americana che viene da Austin, Texas, che è attiva ormai da una ventina d'anni, ma che è molto più famosa in Europa, nello specifico in Germania, che nella propria città natale. E loro incidono per la Blue Rose, che è un'etichetta discografica tedesca molto molto interessante, che ha una serie che si chiama Official Blue Rose Bootleg Series, dove pubblica appunto registrazioni dal vivo degli artisti del proprio roster, e i Resentments hanno registrato questo brano insieme a tanti altri che formano questo doppio CD che si chiama Sinkasten, che dovrebbe essere il locale di Francoforte dove è stato registrato il 29 settembre del 2003. Mutineer, loro si chiamano Resentments. You know, I seen the rainbows in Una dei migliori band degli ultimi anni, a mio avviso, si chiamano War on Drugs. Questi sono parecchio famosi. Sono stati fondati a Filadelfia da Kurt Weill, chitarrista, ed Adam Grandusiel, cantante e chitarrista anch'egli. Però poi Kurt Weill se n'è andato subito dopo il primo album per una carriera solista che gli sta dando grandi soddisfazioni. Ricordatevi questo nome, Kurt Weill, detto in italiana, perché è veramente molto molto in gamba, un tizio tostissimo, ma anche War on Drugs sono tostissimi. E fra l'altro Adam Grandusiel in questi anni di formazione, di attività della band, è diventato il capo, è rimasto l'unico costante all'interno della band e si circonda di volta in volta di musicisti a suo piacimento. Live Drugs è un album un po' anomalo, nel senso che non si sa né quando, né dove, né perché sia stato registrato. No, sto scherzando, non si sa, però effettivamente nessuna data di registrazione e nessun luogo di registrazione. Si sa solamente che fra gli altri pezzi molto belli di questo Live Drugs c'è anche una cover di Warren Zevon, un brano che viene da uno dei suoi album più conosciuti e più belli, che si chiama Excitable Boy, che è un album che uscì nel gennaio del 1978 e che comprendeva questo brano che si chiama Accidentally Like a Martyr. Loro sono War on Drugs. It's harder. on my radio of a Tuesday glow in the dark. I was with you in Ensenada. Now I'm stuck here in Echo Park. Now come on, leader, hold me tighter. I believe I'm sinking down. And I'm so strung out on heroin. All the eyes get to ten. And I went to meet my man, who hangs out on Eldorado Street by the Pioneer Chicken Stand. Now come on, leader, hold me tighter. I believe I'm stinking down. And I'm so strung out on heroin. All the loves get to turn. La voce inconfondibile di Willie DeVille. L'album si chiama Live in Berlin Acoustic Trio ed è registrato in gran parte a Berlino, ma questa Carmelita, brano di Warren Zevon, è stato registrato in quel di Stoccolma e fa parte delle bonus tracks di questo grande, ottimo doppio album. Carmelita in origine era stata registrata da un cantante canadese che si chiama Mara McLaughlin, però poi Warren Zevon la registrò per proprio conto nel suo secondo album omonimo del 1976. Questa era la grandissima voce di Willie DeVille con questo brano che si chiama Carmelita. All right. I want to start tonight with a song in memory of my great friend Warren Zevon. Warren passed away a few days ago, but he was one of the great, great American songwriters. And love him, gonna miss him very much. This is one of

non è difficile trovare qualcuno di loro che ha fatto una cover di Warren Zevon, e infatti a questo punto arriva una delle migliori jam band americane. Si chiamano Big Who, nel senso di Big W, e sono tostissimi, vengono da Minnesota e sono attivi oramai dal 1992, non credevo, tantissimi anni fa. E questo triplo CD è stato registrato al Cedar Cultural Center di Minneapolis, la loro città, il 13 marzo del 1998, e comprende una serie di covers, fra cui quello che è forse il brano più famoso di Warren Zevon. Se avete visto quello splendido film di John Landis che si chiama Un lupo americano a Londra, sicuramente vi ricorderete di questo Werewolves of London. Loro sono Big Boo. doing a werewolf's moon. Saw Lon Chaney Jr. walking with the queen. Doing a werewolf's moon. Saw a bat drinking a cutie colada trail mix. And his hair was perfect. The shit has hit the fan. Sing boys, guns, and money. Woo! Sing boys, Altra voce inconfondibile in questa mattinata, quella di Meatloaf, personaggio che sicuramente tutti conoscerete sia come cantante, famosissimo per il suo But Out of Hell o Paradise by the Dashboard Lights, sia come attore, Rocky Horror Picture Show soprattutto. Questa che ci siamo ascoltati si chiama Lawyers, Guns and Money, avvocati, pistole e soldi. Un brano che viene originariamente inciso da Warren Zevon in Excitable Boys, il suo boy singolare, il suo album del 1978. Qui Meatloaf ce l'ha eseguita nel corso di una trasmissione televisiva americana che si chiamava VH1 Storyteller, nel quale i musicisti, oltre a cantare, si raccontavano. So anyway, eventually I came back to New York. E ci sono le parti appunto parlate anche in mezzo a questo album, molto bello musicalmente parlando. Per quel che riguarda l'intervista invece bisogna sapere molto bene l'inglese, cosa che io non so, e per cui si passa sempre di solito alla musica. Andiamo a concludere comunque questa rassegna forzatamente piccola, forzatamente corta, su brani Warren Zevon interpretati da altri artisti. Fra l'altro volevo dire che Warren Zevon ha fatto due album dal vivo, se vi interessa. Il primo si chiama Standing in Fire ed è del 1980 ed è bellissimo perché è un album molto molto rock, potentissimo, veramente due chitarre se non tre, sono bellissimo. Mentre il secondo, che è del 1993, si chiama Learning to Flinch, è esattamente il contrario, Warren Zevon da solo col piano, la sua voce e la chitarra. E, fra parentesi, questo Learning to Flinch è stato registrato in qua e là per il mondo, c'è anche una registrazione effettuata in Italia, e per quel che riguarda l'Italia il suo road manager fu un amico che si chiama Alberto Artese, e che mi raccontò che l'impianto sonoro che aveva Warren Zevon con sé era a livelli siderali, bellissimo, si sentiva veramente da Dio. Comunque adesso ci andiamo ad ascoltare questo duo un po' particolare, David Lindley più Henny Naser. David Lindley è dei due il più famoso, ha suonato un po' con tutti, è diventato molto famoso cantando quel pezzo di Stay insieme a Jackson Browne, e invece Henny Naser è un percussionista giordano che però è andato con la famiglia negli Stati Uniti quando aveva 7 anni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un CD che si chiama Official Bootleg, che è stato registrato a Tokyo in Giappone nel 2002. È un brano che arriva da un altro bellissimo album di Warren Zevon, si chiama Bad Luck Streak in Dancing School, un album del 1980, e si chiama Play It All Night Long. Loro sono David Lindley e Henny Naser. This next song is a song written by Warren Zevon. And this is one of his strangest and one of his best.

Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 21 febbraio 2024, e seconda parte che è iniziata naturalmente con la novità che vi propongo quest'oggi, Shooter Jennings and the Warblers of Los Angeles, che ha appena presentato il tutto per un omaggio a Warren Zevon. Infatti questo album, che ha il solo difetto di essere singolo, è anche abbastanza corto, si chiama Do Zevon, un omaggio appunto al grande cantante autore di californiano che ci ha lasciato ormai tanti anni fa. Il pezzo che ci siamo ascoltati era il title track del suo album del 1978, sto parlando di Warren Zevon, naturalmente l'album di Warren Zevon del 1978, si chiama Excitable Boy, ed è proposto in questo concerto che è stato registrato al Rebels and Renegades Music Festival a Monterey in California il 16 ottobre del 2022. Ottimo album, come dicevo, anche se i pezzi di Warren Zevon interpretati da Shooter Jennings e la sua band sono un tantinello troppo ingessati, diciamo, troppo simili all'originale, ma questo non è un grandissimo difetto, è sicuramente un merito rendere omaggio a questo grande personaggio Warren Zevon, che qui in Italia era pochissimo conosciuto. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora oggi tantissime cose, tantissime, e il criterio rimane sempre quello, un brano per ogni decade. E iniziamo dagli anni 70, tardi anni 70 per meglio dire, siamo nel 1979, l'esplosione del punk ha portato al successo quattro ragazzi che arrivavano dal Surrey, da Hersham per la precisione, furono attivi dal 1975 al 1980, poi si sono riformati nel 1987 sotto la guida di Jimmy Parsons, il cantante, e sono tuttora attivi. E naturalmente sto parlando di Sham 69, grande band che inizialmente, all'inizio della propria carriera, ebbe i grossi problemi perché i propri concerti succedevano sempre delle risse, accadevano sempre delle risse fra skinheads. In Gran Bretagna gli skinheads si dividono in due parti, ce n'è una parte sinistrorsa, diciamo così, e la parte destrorsa, però avevano in comune appunto questi Sham 69 come band, però quando si trovavano ai concerti se le davano di santa ragione, e sono stati più volte interrotti i concerti di Sham 69, ed è un vero peccato. Ci andiamo ad ascoltare in questo dischetto della serie BBC Radio 1 Live in Concert, ancora una volta vi dirò, ma lo sapete, che era una serie radiofonica della BBC, l'ente di Stato Radio Televisivo Britannico, che registrava concerti e li trasmetteva in radio, se ricordo bene, al sabato pomeriggio o giù di lì, e affittavano anche un locale, il Paris Theatre, per fare questi concerti, e infatti questo album è stato registrato proprio lì in Lower Regent Street il 21 febbraio del 1979. Sham 69 avevano un inno che tutti conosciamo perché l'avremmo già sentito milioni di volte, che ci parla dell'unità dei ragazzi, si chiama If the Kids Are United, loro sono Sham 69, 21 febbraio 1979. This one's called The Kids United. You and me. Come vi dicevo prima, era un po' predicare nel vuoto questo If the Kids Are United, soprattutto nei primi tempi della carriera di questi Sham 69, che sono tuttora in giro con il duo, appunto, Jimmy Parsons e il cantante Dave Parsons, il chitarrista. Jim Parsons poi se ne andò per qualche tempo per tentare la carriera solista senza tanto successo ed è poi rientrato nella band. Il tutto registrato per la BBC Radio 1 Live in Concert Series, questa benemerita serie che purtroppo è scomparsa nel nulla, anche perché probabilmente i CD di questa serie li compravo solo io. E questo è un attimo di silenzio perché deve ripartire il pezzo. Forse ci vorrà un po' di tempo, eccolo qua. E tutto era registrato nel 1979, il 21 febbraio. Gli anni 80 invece vengono rappresentati ancora una volta, visto che l'abbiamo già ascoltato di recente, da Joe Jackson, altro personaggio molto particolare, quello che dice spietatamente che il rock è morto, ma poi quando c'è bisogno di fare un po' di soldi fa degli album rock. Il problema è che li fa sempre molto belli. Questo è un'altra serie, prima eravamo alla BBC, stavolta siamo invece in una televisione tedesca che si chiama WDR, che è titolare di una trasmissione televisiva stavolta che si chiama Rock Palast, trasmissione della quale vi ho già parlato tante volte, benemerita, tipo di trasmissione, lo ripeto sempre e lo ripeterò sempre, che è mancata in Italia, quella di far vedere per TV concerti e non gente che mima quello che si sente, quello che è il sonoro. Comunque, a parte questa polemica che lascia il tempo che trova, Rock Palast è un doppio CD che vede addirittura tre concerti di Joe Jackson, della sua band. Questo è stato registrato il 21 febbraio del 1983 alla Markthal di Amburgo, naturalmente in Germania, ci mancherebbe altro. E il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è un pezzo un po' particolare che parla di un tema che per molto tempo è stato tabù, si chiama Concert, Joe Jackson. Thank you. Chiama Cancer, questo brano che ci siamo ascoltati da Joe Jackson e la sua band. Siamo a una trasmissione Rock Palast, trasmissione tedesca, e quindi registrata in Germania alla Markthalle di Amburgo il 21 febbraio del 1983. Take your mind back. Torniamo in Gran Bretagna, esattamente a Glasgow, al Barrowlands, che è un locale storico della città scozzese, e siamo in compagnia di una band che arriva da Oldham, che è un agglomerato che fa parte del Greater Manchester, una band attiva, anche se ha avuto diverse interruzioni fin dal 1980, ma in modo o nell'altro è arrivata ai giorni nostri. Si chiamano Inspiral Carpets e facevano parte della cosiddetta scena Madchester, è un gioco di parole fra Mad e Manchester, appunto. Scena da quale facevano parte anche gli Stone Roses e gli Happy Mondays, fra gli altri, erano le punte di diamante, diciamo, alla fine degli anni Ottanta. L'unico membro originale, stiamo parlando di una band che, come dicevo, è attiva dal 1980, l'unico membro originale è il chitarrista, si chiama Graham Lambert, anche se in realtà la band ha un suono dominato dall'organo, come andremo a sentire. Hanno fatto un sacco di singoli, molti con pezzi dal vivo, fra cui questo singolo che si chiama Generations, è stato edito in due versioni. Quelle che ci andiamo ad ascoltare a questi brani, ma anche l'altra, registrati al Barrowlands di Glasgow il 21 febbraio del 1992, e il pezzo, uno dei classici di questa band, se così si può dire, si chiama She Comes in the Fall. Wake up. Black Crowes, sicuramente li avete riconosciuti, una grande band che viene da Atlanta, Georgia, fondata naturalmente dai fratelli Robinson, naturalmente, perché lo sappiamo, e fratelli che ogni tanto litigano, sciolgono la band ma poi si riformano. Sono in giro per hanno già cominciato negli Stati Uniti per pubblicizzare, diciamo così, il loro nuovo album, che uscirà però in marzo e che li porterà, questo tour li porterà anche in Italia, a Milano, esattamente il 27 maggio agli Arcimboldi, Teatro degli Arcimboldi, che non è esattamente, secondo me, il posto migliore per vedere Black Crowes, ma è meglio così che niente. L'album che ci siamo ascoltati è un po' particolare perché si chiama Before the Frost ed è uscito in CD, che conteneva all'interno della confezione anche un codice per scaricare il seguito, che si chiama Until the Freeze, così sarebbe prima del freddo fino al congelamento, più o meno, così da avere un doppio album molto interessante. È stato registrato negli studi di Livon Helm, che era il batterista, fu il batterista della band, ma che viveva a Woodstock, che aveva fatto uno studio in cui stanno registrando un sacco di musicisti. Il tutto nel 2009, il tutto fu registrato davanti a un pubblico. Loro fecero una serie di 4-5 concerti in quella località, e da quali furono tratti poi i brani che sono stati inseriti in questo doppio album. Dicevo, pubblico non molto numeroso, ma sicuramente fortunatissimo di vedere questi Black Crowes faccia a faccia, vicinissimi. Era il 2009 per i Black Crowes, mentre è il 2011 per questa formazione, che in realtà arriva dal 1969, quindi tantissimi anni. Andy Powell, chitarrista, è l'unico membro originale. Loro si chiamano Wishbone Ash, e se non sono stati gli inventori, diciamo così, del suono della doppia chitarra, il cosiddetto Twin Guitar Sound, sono stati sicuramente fra i primi ad attuarli. Twin Guitar Sound è quel suono che fanno due chitarre che suonano all'unisono, una con una tonalità e una con un'altra, che certamente avete sentito in tante altre parti. Un cofanetto che si chiama Roadworks comprende 4 concerti, fra cui questo registrato ad Amburgo in Germania al Fabrik il 21 febbraio del 2011. Per motivi di tempo sono forzatamente costretto a farvi ascoltare questo, che non è niente male, ma non è quello che volevo farvi ascoltare. Si chiama Northern Lights. Loro sono Wishbone Ash. Well, yesterday in Helsinki, which is Matti Mäntynen's hometown, this is Matti Mäntynen. It was very cold up in Helsinki. It was minus 31 degrees centigrade, so it's really freezing. And I guess that would be the kind of inspiration for a tune which Muddy wrote some years back now, actually. So it's got kind of a cold, wintry vibe to it. It's called Northern Lights. strumentale per questi Wishbone Ash, si chiama Northern Lights, il pezzo che ci siamo ascoltati da questo Live in Hamburg che fa parte del cofanetto Roadworks, 4 CD tutti molto interessanti e tutti registrati più o meno a cavallo del 2011, come appunto il 21 febbraio del 2011 era registrato questo brano. Andiamo a finire con una band che ha fatto un sacco di album live, sia ufficiali, diciamo così, che con una discografia parallela gestita dal loro website. Si chiamano Dream Theater, vengono da Boston e sono attivi dal 1985. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Distant Memories Live in London. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo, sempre in ritardo come potete sentire dall'accelerazione della mia voce, il tutto sui 103.1 MHz modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, oppure tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. Potete ascoltarci all over the world. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia dei Dream Theater registrati al Hammersmith Edmonton Apollo di Londra il 21 febbraio del 2020.